Libano, un mese dopo l'esplosione al porto, un paese da ricostruire. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Cette solidarité, cette fraternité, c'est celle de tout le peuple français, à l'endroit du peuple libanais. I'm here to bring help to coordinate. We will launch a European and international initiative to bring money and help directly to people. Praticamente una tempesta perfetta, ma può rappresentare l'unica opportunità per questo popolo libanese. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Una nuova puntata, l'ultima della settimana di Nessun Luogo è Lontano. Un nuovo viaggio insieme a voi per dare un occhio, uno sguardo su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. La squadra di Nessun Luogo: Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e Paolo Corleone in regia. Commenti per alimentare il dibattito: 349-238-6666 è il numero che vale per SMS e WhatsApp, domande e commenti appunto. Ma siamo anche sui social: Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Quest'oggi l'intera puntata è dedicata alla situazione libanese. Oggi cade esattamente un mese, il mesiversario, direbbe qualcuno con un italiano un po' zoppicante, da quella tremenda esplosione che ha messo ulteriormente il Libano in ginocchio, un paese che già prima soffriva di quelle istanze di piazza spesso anche violente, una corruzione della politica endemica, una presenza molto molto ingombrante, quasi un parastato, sto parlando di Hezbollah naturalmente, corruzione dilagante, crisi economica, sistema bancario e finanziario totalmente al collasso, un paese in default. Ci si è messa anche quella terribile esplosione, noi tutti abbiamo visto quei video agghiaccianti da varie prospettive, spesso telefonini, punti di vista amatoriali che hanno restituito tutta la tragicità di quell'evento. E allora partiamo esattamente da quello che è successo un mese fa. It's no longer just about the demand of reform, of incremental change over time. It's about fear of going hungry, basically. Non abbiamo soldi perché non c'è lavoro. Non ci sono acqua né elettricità, non c'è il frigorifero. Ma anche se ci fosse, non c'è la corrente elettrica. Much of Beirut is shattered this morning by one of the most powerful peacetime explosions ever. On August 6th, French President Emmanuel Macron became the first Western head of state to tour the remains of Beirut. 55,000 Lebanese signed a petition for France to take control. But can France really be a solution to Lebanon's woes? Questa è la copertina curata da Valentina Ternullo e Paolo Corleone, che ci riporta indietro di un mese esatto. Che cosa è accaduto? Anzi, faccio un passo indietro, o meglio in avanti, perché di poche ore fa la notizia del ritrovamento da parte dell'esercito libanese di oltre 4 tonnellate di nitrato d'ammonio, è una sostanza altamente esplosiva, la stessa che ha detonato un mese fa facendo oltre 190 morti vicino all'ingresso del porto di Beirut. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale NNA, citando appunto una nota delle forze armate libanesi. Naturalmente è molto preoccupante questo nuovo ritrovamento. Quel vecchio carico a cui è dovuta l'esplosione erano 2750 tonnellate. Quell'esplosione ha portato all'arresto di almeno 20 funzionari del porto, tra cui anche il direttore. Sulla parte strettamente giudiziaria torneremo tra poco, andiamo invece su quella che è la vera urgenza ed emergenza: una città ridotta sostanzialmente in macerie, un popolo libanese che ha bisogno e una politica internazionale che si è mossa. Su tutte, quella francese, attivissimo il presidente Emmanuel Macron, ben due visite nel corso di un mese, ne davamo conto proprio ieri, ha promesso e sta portando aiuti, attivate forti linee finanziarie, ma anche, come dire, messo un piedino all'interno della politica libanese, chiedendo a gran voce che il nuovo premier Adib formi un governo entro 15 giorni, ha chiesto e invocato lotta alla corruzione, la riforma delle grandi infrastrutture e anche la riforma del settore bancario e finanziario, che tanti problemi ha portato alla società libanese. Non soltanto Francia, ma anche Italia in prima linea. Io ricordo innanzitutto quella che è la presenza militare italiana, perché il comando UNIFIL è da tempo nelle mani degli italiani. Spesso i comandanti di quell'operazione sono stati ospiti ai nostri microfoni. Parliamo della Valle della Bacca, del sud, confine con Israele, luogo caldissimo in cui gli italiani stanno svolgendo, e posso dirlo senza tema di smentita, un egregio lavoro in un teatro così sensibile. E poi ieri la visita di Emanuela Del Re, ministro affari esteri e cooperazione, che ha aggiunto un po' di carichi da 90 a quello che è l'aiuto internazionale, ed è proprio qui con noi per raccontarci esattamente cosa sta facendo il governo italiano. Viceministro Del Re, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buonasera a tutti e grazie per questo veramente questa accurata introduzione, assolutamente molto opportuna. Grazie a lei e grazie soprattutto per il tempo che ci dedica. Sto leggendo un po' le agenzie che riportano i vari comunicati del Ministero degli Esteri. 20 tonnellate di aiuti umanitari, esperti, un nucleo rimozione macerie del genio militare, un ospedale militare da campo, vari voli sono stati mobilizzati e un contributo finanziario che arriva a quasi 1 milione di euro, soprattutto per sostenere la Croce Rossa libanese. Com'è andata la visita di ieri Emanuela Del Re? E soprattutto, viceministro, che Beirut ha trovato? Ho trovato una Beirut sicuramente che sta attraversando un momento difficoltosissimo. Avete detto voi stessi, i problemi non sono soltanto quelli dovuti all'esplosione, ma una serie di questioni che affondano le radici nel passato, e tra queste alcune che vanno a incidere direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini, come appunto la crisi dell'elettricità e altre questioni, anche l'aspetto finanziario estremamente importante, che certamente delineano un momento critico che ha bisogno certamente appunto di forte interesse internazionale, di aiuto e sostegno. Per questo sì, l'Italia è presente e lo è stata dal primo momento dell'esplosione, ma in realtà lo è da decenni, perché noi con le nostre OSC, ma anche con i nostri rapporti bilaterali, siamo presenti e amici del Libano veramente da decenni. La voce, il racconto di Emanuela Del Re, viceministro affari esteri, cooperazione, quando fa riferimento all'SC, l'acronimo indica le organizzazioni della società civile. Fra l'altro, dopo lei, viceministro, avremo anche il capo progetto delle attività di AVSI, Fondazione AVSI, che è una delle tante ONG italiane che opera appunto in quel paese da parecchio tempo, dal 96. Faceva bene a sottolineare quanto l'interesse italiano in Libano sia oramai datato, al di là della presenza militare nell'ambito, certo, dei caschi blu. Però, viceministro, quali sono gli interessi strategici italiani in Libano? Ce li può riassumere? Gli interessi strategici sono innanzitutto legati alla posizione geografica del paese, che naturalmente è al centro di una serie di questioni molto importanti, l'ha ricordato lei con la presenza della nostra UNIFIL, ma sicuramente anche sostenere un paese che fino ad ora, e lo è ancora, perché insomma ci auspichiamo sicuramente un futuro sereno e fulgido, è stato veramente un faro di democrazia in tutta la regione, ha costituito un elemento di stabilità, tra l'altro con una società civile e una classe media vibrante, piena di iniziative, un luogo di riferimento per tutte le organizzazioni internazionali che proprio da Beirut poi si interessavano delle crisi regionali, dalla Siria alla questione dei rifugiati. Quindi sicuramente sì, per noi avere un paese così nel Mediterraneo è assolutamente fondamentale, ed è per questo che siamo preoccupati e molto dispiaciuti. Lei ha citato AVSI, io proprio ieri ho visitato un progetto di AVSI che mi ha consentito di vedere da vicino di cosa stiamo parlando quando naturalmente ci riferiamo alla famosa esplosione del 4 agosto. Ho visitato i quartieri di Keita e Remail, e quartieri in cui effettivamente c'è stato un impatto sulle infrastrutture, ma anche sulle persone, con naturalmente anche appunto ferimenti e in qualche caso addirittura uccisioni estremamente grave. E noi come Italia, appunto, nell'ambito delle molte attività che stiamo conducendo, oltre alle donazioni, perché io ieri ho donato a nome del nostro paese ovviamente un altro consistente quantità di aiuti, e siamo appunto estremamente presenti e vicini a questo popolo che assolutamente merita tutta l'attenzione in questo momento storico che sta vivendo così complesso. siamo in diretta col vice ministro affari esteri e cooperazione Emanuela Del Re, fresca di visita a Beirut. Proprio mentre lei si recava a Beirut, anche altri rappresentanti di potenze straniere erano in quelle ore nella capitale libanese, in particolare David Schenker, come riporta molto bene Formiche, sottosegretario di Stato agli Stati Uniti per il Medio Oriente. Non ha incontrato leader politici, però ha dichiarato che il governo libanese deve credere nelle riforme e metterle in atto. Appello ribadito anche da Mike Pompeo, che in qualche modo, come dire, come Stati Uniti si accodano a Parigi nella, definiamola così, però mi aiuti Vice Ministro, delicata ingerenza negli affari politici libanesi. C'è il problema Hezbollah, c'è il problema della corruzione, del confessionalismo, del settarismo strisciante, che da una parte ha garantito stabilità alla politica libanese, dall'altra parte l'ha inchiodato a un sistema particolarmente farraginoso che Macron vorrebbe in qualche modo, in nome della laicità, provare a snellire, a smantellare. L'Italia si sente di spingere anche sul piano politico, diciamo, nel dare indicazioni, tiepidi suggerimenti alla politica libanese e al nuovo premier Adib? Ma intanto, quando lei parla di ingerenze, insomma, questo è un termine forte, sì, per quanto lei abbia detto moderate. E certamente da parte italiana, l'ho già detto all'inizio, non si parla di ingerenze, si parla di un dialogo aperto, di un confronto molto sereno. Io stessa ho incontrato il ministro degli esteri, sì, e oltretutto c'era stato già prima di me il ministro Guerini, tanto a dimostrare quanto l'Italia immediatamente ha reagito. Sì. Peraltro ci sarà il presidente del Consiglio Conte martedì, che farà una visita veramente molto concentrata sugli elementi politici. Quindi, per quanto ci riguarda, non si tratta di ingerenze, ma di dialogo, di confronto, sì, soprattutto di apertura anche a opportunità diverse. Certamente anche noi siamo perfettamente consapevoli di quanto siano necessarie le riforme, anche noi ripetiamo che in questo momento c'è bisogno effettivamente di voltare pagina su molte cose, soprattutto di ristabilire un equilibrio in tanti, su tanti fronti, sì, ma da questo punto di vista, per quanto ci riguarda, sicuramente appunto si tratta di un dialogo. Non a caso io ho parlato anche con la società civile libanese, tra l'altro lei sa che io ho lavorato in Libano, certo, per diverso tempo, certo, e conosco bene la situazione. Quando lei parlava di settarismo e così via, sono emerse certamente delle istanze molto forti da parte della società in generale, della classe media, che hanno necessità di trovare risposta sicuramente in questo momento particolare da parte della leadership. Io sono fiduciosa, perché a volte situazioni come queste effettivamente poi possono portare a una riorganizzazione anche appunto di tutte le componenti della società, che poi possano effettivamente portare a riforme efficaci. Il problema, sì, è proprio quello: ci troviamo di fronte a un paese però che in questo momento deve appunto ricomporsi politicamente, ricomporsi socialmente, ricomporsi economicamente. Insomma, non è facile, ed è per questo che noi ci siamo, per questo che noi portiamo avanti le nostre strategie di aiuto, soprattutto di confronto e di appoggio, che è una cosa diversa dall'ingerenza. Assolutamente, ma quando parlavo di tiepide o pallide ingerenze, naturalmente, sì, certo, mi riferivo a Stati Uniti e Francia. Sì, ma è utile. No, assolutamente. Sull'atteggiamento italiano. Apprezzo la risposta. Sì, ognuno poi naturalmente ha il suo stile, e d'altra parte la Francia ha un rapporto particolare con il Libano, c'è una storia diversa. Io lo ripeto sempre, non siamo né in competizione né vogliamo appunto imporre un modello unico. Sì, sì. Come Europa siamo molto uniti, di solito abbiamo delle risposte molto simili. Certamente ciascun paese poi esercita un suo modo di confrontarsi con le crisi che appartiene alla sua storia e al suo modo di essere. L'Italia, devo dire la verità, è estremamente apprezzata proprio per questa sua delicatezza nel creare un confronto molto diretto, alla pari, che permette effettivamente di fare una sorta di maieutica, per cui alla fine il paese riesce, anche con il nostro aiuto, io sono molto fiera di questo, a elaborare appunto delle strategie positive e soprattutto efficaci a lungo termine, perché qui il problema è non soltanto risolvere l'emergenza, che certo, è assolutamente essenziale, certo, ma non dimenticare le altre parti del paese, perché altrimenti rischiamo di concentrarci soltanto su una zona e diciamo in qualche modo abbandonare altre aree dove invece c'è tuttora una fortissima necessità. E poi non pensare soltanto a quella che in inglese si chiama normalmente questo early recovery, ma anche ad una strategia più integrata e a lungo termine, per fare in modo che effettivamente appunto le riforme poi possano portare un qualche benessere. Lei deve pensare che gli ospedali distrutti, la mancanza di elettricità, certo, insomma, sono questioni che sulla vita quotidiana assolutamente e senza tema di smentita. All'inizio di questa trasmissione dicevamo che il Libano davvero è un paese assolutamente in ginocchio. L'ultima domanda, l'ultimo punto che vorrei toccare con lei, Vice Ministro, riguarda il ruolo di Hezbollah, e mi ricollego in qualche modo, ho citato due paesi in particolare, due grandi potenze che, come dire, allungano l'occhio sul Libano. Da una parte la Francia, che dato il suo passato coloniale ha un filo rosso piuttosto solido, ma anche un atteggiamento di un certo tipo. Dall'altra parte gli Stati Uniti, che vedono Hezbollah come chiaramente una minaccia all'intera stabilità. Dobbiamo ricordare, a beneficio degli ascoltatori, Hezbollah ha un rapporto privilegiato, per usare un eufemismo, con Teheran, e quindi una presenza corposa, ingombrante se volete, di Hezbollah nella politica pubblica libanese preoccupa anche gli Stati Uniti. Da ciò, diciamo, la pallida ingerenza a cui facevo riferimento prima. Sì. Ecco, Vice Ministro, sì, che cosa pensa lei di Hezbollah e del suo ruolo? Nasrallah, il leader, ha accolto di buon favore anche le indicazioni, no? L'appello all'unità politica da parte di Macron. È una presenza che non si può ignorare, non si può sottovalutare, allo stesso tempo è quasi un parastato. Guardi, io le posso dire questo: per quanto riguarda l'Italia, appunto, rimaniamo sulla nostra politica, perché poi certamente, come ho detto prima, e come ha detto lei correttamente, infatti ho molto apprezzato il cappello iniziale, devo dire la verità, appunto, è una situazione complessa. Noi non possiamo prevedere l'evoluzione a breve termine, nel senso che ci sono segnali naturalmente di presa di coscienza anche da parte della leadership, abbiamo visto già dei cambiamenti in atto in questi giorni. Per quanto riguarda l'Italia, che assume sempre un atteggiamento estremamente corretto, in questo io devo dire c'è una continuità anche con i governi precedenti, noi consideriamo Hezbollah ovviamente uno degli attori del panorama politico. E quindi è questo che noi riteniamo in considerazione, e staremo a vedere quali sono appunto i cambiamenti. In questo momento è delicata la situazione, perché appunto stanno cambiando anche tutti i protagonisti, è molto difficile prevedere quello che poi sarà il prossimo passo, perché per adesso effettivamente appunto siamo in quel momento particolare in cui può cambiare tutto. Naturalmente si possono presentare scenari completamente diversi, ma noi siamo pronti, come ripeto, a reagire. E le dico anche questo, sì, perché appunto la politica, per esempio, degli aiuti, che non a caso lo stesso Macron ha messo in atto e mettono in atto diversi paesi, è una politica molto importante, perché quando si danno aiuti si fa un'affermazione politica, certo, ovviamente. Quindi dubbio, su questo noi stiamo puntando. E come ripeto, andrà anche il presidente Conte martedì, incontrerà, certo, i quattro presidenti e farà una serie di visite politiche proprio per confermare la nostra vicinanza e anche questo nostro atteggiamento di dialogo. Il dialogo in questo momento è tutto. Anche ovviamente Libano, anche con Hezbollah, ma vi saranno anche incontri con la leadership di Hezbollah, ipotizzabile? Guardi, il programma è ancora in via di definizione. So che incontrerà tutti i leader politici in questo momento più rilevanti. E quindi potrebbe essere anche Hezbollah. Sarà una visita significativa, sì, anche perché quando il nostro Presidente del Consiglio va in visita, devo dire la verità, lascia un segno. Quindi sinceramente io anzi sono molto felice di aver preparato il terreno con questa mia visita così intensa, e in grado appunto poi anche di riferire su tutte le osservazioni che ho potuto fare. Grazie mille al Vice Ministro Emanuele Del Re, in bocca al lupo naturalmente per questo impegno. Grazie, e buona giornata e buon lavoro a tutti i libanesi, ovviamente. Grazie. Alla prossima, grazie mille. Buonasera. Naturalmente i più attenti ascoltatori avranno notato che abbiamo saltato a pie pari i nostri dossier internazionali, ve li riproporremo a fine puntata. I dossier sono fatti notizia dal Globo, che teniamo d'occhio, e diventeranno nuove puntate di Nessun Luogo è Lontano. Per impegni del Vice Ministro Emanuele Del Re abbiamo preferito andare direttamente a Beirut per raccontare quello che l'Italia sta facendo. E così rispondo anche a un ascoltatore particolarmente irriverente: state scherzando, l'Italia dà consigli di buon governo al Libano, siamo su scherzi a parte. Ma guardi, gentile ascoltatore, lo sta facendo anche la Francia, lo sta facendo in qualche modo anche l'amministrazione statunitense. Sono d'accordo su un punto che ha toccato Emanuele Del Re: ha usato il termine delicatezza sulla politica estera italiana. Voi sapete quanto io spesso sia critico sulla proiezione all'esterno della politica italiana. Trovo che sul quadrante libanese, sul quadrante libico, molto molto recentemente, attenzione, potremmo avere delle piacevoli sorprese, nel senso che quello che da molti, io in primis, era stato bollato come attendismo, attenzione che potrebbe invece portare i suoi frutti, cioè il non entrare a gamba tesa nelle situazioni di crisi, di emergenza internazionale, potrebbe essere un punto a vantaggio della politica estera italiana. Naturalmente soltanto il tempo ci darà ragione. Nel caso libanese ho come l'impressione che il tempo sarà molto, molto breve, al di là dei diktat del presidente francese Emmanuel Macron. Poi c'è un altro ascoltatore che in maniera polemica dice: perché non chiedete al viceministro i militari invece di mandarli in Libano, mandateli nelle zone terremotate per ripulire le macerie? Ma i militari italiani vanno già in quelle situazioni di emergenza nazionali, lì c'è un comando di una missione UNIFIL, che è una missione delle Nazioni Unite, che ha comando italiano ormai da tempo e sui quali i militari italiani stanno facendo un ottimo lavoro, che rientra in logiche internazionali. Attenzione, non vengono sottratte risorse in termini di uomini e mezzi a quelle che sono invece gli impegni nei teatri italiani, quindi non vedo il perché porre un'alternativa, ecco, da questo punto di vista. Nel frattempo Andrea Macchioni mi segnala quello che è purtroppo l'esito continuo di quella terribile esplosione, e la notizia arriva dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. La distruzione del porto di Beirut ha provocato tra le 100 e le 800.000 tonnellate di detriti, molte dei quali che sono estremamente pericolosi a causa del tipo di materiale immagazzinato nel porto. Vi sarebbero pesticidi, prodotti farmaceutici, prodotti chimici industriali, vari tipi di metalli pesanti. Naturalmente, quando si parlava di ricostruzione non soltanto delle infrastrutture finanziarie, ma qua si parla anche di rifiuti, di ricostruzione fisica a tutti gli effetti. E peraltro tra pochissimo proprio di ricostruzione parleremo, perché vi porterò in diretta a Beirut proprio con le responsabili dei progetti libanesi della Fondazione AVSI. 349-238-6666. Rispondo intanto a un altro ascoltatore o ascoltatrice. La musica che stiamo trasmettendo è uno dei nostri vezzi, se volete. Ogni tanto cerchiamo di colorare il racconto di esteri di Nessun Luogo Lontano con delle band particolarmente significative. Naturalmente anche quest'oggi Paolo Corleone ha dovuto soggiacere alla durissima legge del metal che ormai sto imponendo da qualche mese a questa parte. Questi sono gli Orphaned Land, in realtà è una band israeliana ma particolarmente ecumenica nel suo messaggio. Cantano in israeliano, in ebraico, cantano in arabo, riescono a miscelare molto bene quella che è la sonorità medio orientale invece con i suoni più duri tipici del metal, e in un paese come il Libano, capace di grande sincretismo e di grandi produzioni culturali. Tra pochissimo vi faremo sentire una sorpresa, perché c'è una band metal tutta al femminile. Interessante anche l'aspetto di un ascoltatore che sottolinea: veramente vogliono coinvolgere Hezbollah nei colloqui. Allora, qua ancora una volta, ma poi mi taccio, promesso, nel senso che è l'ultima opinione che cerco di esternare in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Con Hezbollah si parla, questo è evidente, i militari di UNIFIL che sono a Sun nella valle del Baqa devono parlare con Hezbollah. Probabilmente ci potrà essere una certa ritrosia nell'ammettere, allora, dubito che, come dire, il Premier Conte andrà a stringere la mano a Nasrallah, ecco, ma sarebbe naif pensare che non vi siano incontri, non vi siano. Hezbollah, oltre ad avere un'ala militare, è presente nel Parlamento libanese, una forza politica a tutti gli effetti. Faremmo la figura appunto degli attori internazionali un po' naif, un po' che cadono con la prima pioggia, per citare Fusco, e che poi però si trovano a pestare delle bucce di banana senza nemmeno accorgersene. Da ciò a ufficializzare un dialogo Farnesina e Hezbollah, direi che ce ne passa. Allora, Paolo Corleone, facciamo una piccola pausa. Sì, andiamo a sentire come vanno le borse in questo venerdì, e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è Lontano. Finalmente della buona musica in una trasmissione radio. Alzare un pochino il volume, così Luca, Paolo Corleone risponde così. Parlavamo Parliamo proprio della profonda ricchezza anche culturale e musicale che il Libano sa regalare per gli amanti del metallo. Le Slave to the Sirens, una band interamente al femminile. Leggendo un po' di post, fra l'altro sui social, molti metallari in giro per il mondo stupiti, ma come cinque ragazze possono fare il metal in un paese del vicino oriente? Il Libano può regalare anche questa apertura, questo grande sincretismo. Detto ciò, Paolo Corleone, prometto, è l'ultimo pezzo metal per oggi, vero? Perché è una lotta durissima qui. Allora, scherzi a parte, in questa puntata, in questo focus speciale di Nessun Luogo è Lontano, stiamo raccontando un mese esatto da quella tremenda esplosione che ha dilaniato il porto di Beirut e buona parte della città. Peraltro stavo buttando l'occhio proprio a France 24 con il suo inviato sul campo, l'emittente francese che sta seguendo molto da vicino le vicende. I ricercatori, i soccorritori stanno ancora cercando tra le macerie, pensate, segni di vita. Mentre Andrea Macchioni mi segnala un altro aspetto che è legato invece alla presenza italiana, i militari della missione UNIFIL in Libano, un paio di giorni fa hanno organizzato una raccolta di sangue proprio per il calo delle scorte nel paese, e ha raccontato i dettagli, anche un po', se volete, l'afflato emotivo il generale Andrea Di Stasio, che è comandante appunto del contingente italiano di UNIFIL. Ma questo per spiegare anche come, e l'abbiamo raccontato anche dalla viva voce dei militari italiani, come si svolge anche la missione dei caschi blu a guida italiana nel sud del paese. Vi avevo promesso di portarvi a Beirut in diretta, allora lo facciamo immediatamente, lo facciamo con la voce di Marina Molino Lova, capo missione AVSI nel paese. Buongiorno Marina, ben ritrovata qui a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, AVSI, e voi conoscete il paese da parecchio perché siete presenti nel 1996, in particolare dopo l'esplosione del 4 agosto vi siete dedicati alla ricostruzione. Non è un termine generico, non è un'etichetta vuota. Questa volta stiamo parlando proprio di ricostruzione materiale. Oltre 100 case che siete riusciti in qualche modo a ricostruire. Qual è l'impegno di AVSI fondamentalmente al di là della ricostruzione delle case sinteticamente? Sì, allora esatto, come AVSI ci siamo intervenuti subito sui quartieri dove era possibile accedere fin dal secondo giorno dopo l'esplosione, perché appunto i quartieri più vicini al porto erano inaccessibili per le ONG per i primi giorni, e abbiamo cominciato a fare degli assessment sulla situazione dei danni delle case appunto in questi quartieri che hanno dei danni diciamo medi di media entità, trovando tante persone che si sono ritrovate immediatamente senza niente nelle case, ma anche con una estrema povertà dovuta alla crisi in cui vivono, per cui abbiamo pensato di dover fare subito un intervento di porte e finestre per permettere loro di dormire nelle case che non avrebbero lasciato a nessun costo, certo, ma in sicurezza. Quindi abbiamo messo in piedi un'equipe di assistenti sociali e psicologi per valutare i casi più gravi, seguiti poi immediatamente dopo da un'equipe tecnica che ha proprio preso le misure e fatti preventivi, e a seguito delle piccole imprese libanesi sono arrivate per rimettere le porte e le finestre a questi appartamenti. Quindi ad oggi abbiamo 130 case e piccoli negozietti di cui abbiamo già tutti i dati e i contratti, sì, diciamo gli agreement firmati. Sì. Ne abbiamo già terminato una trentina e giorno dopo giorno continuiamo i lavori di riparazione. La voce, il racconto che arriva in diretta da Beirut di Marina Molino Lova, capo missione di AVSI nel paese, che ci racconta come una delle tante realtà del terzo settore, quella italiana, quella di AVSI per esempio, si è impegnata la notte stessa dell'esplosione proprio per mettere un tampone a quella che è stata un'emorragia a tutti gli effetti. Uso lo stesso termine, emorragia, si è spesso parlato della fuga di cervelli italiani appunto dall'Italia. Esiste anche lo stesso fenomeno in Libano, nel senso che è presente in Italia, in Europa, una grandissima diaspora libanese, e tra pochissimo vi faremo anche sentire la voce dei libanesi che da fuori hanno guardato a questa tragedia. Però Marina Molino Lova, ho per lei una domanda un po' provocatoria, in particolare la provocazione arriva da L'Orient Le Jour, che è questo giornale libanese in lingua francese. Antonio Tale ha raggiunto Asil Tabarra, che è il direttore di L'Orient Le Jour, e gli abbiamo chiesto questo. In un momento di estremo bisogno, in cui chiaramente le ONG straniere e anche quelle italiane si sono mobilitate e sembrano giocare un ruolo enorme nella ricostruzione. Voi come ASI in 28 giorni avete raccolto 300.000 euro, per esempio, grazie soprattutto a donatori privati. Ecco, non ha il timore che questo ruolo molto potente da parte di attori internazionali, statali e privati possa deresponsabilizzare la politica libanese? Abbiamo sottolineato come la classe politica e governativa libanese abbia responsabilità enorme nell'andamento del paese. Ecco, il fatto di aiutare voi non deresponsabilizza loro? Allora, no, capisco. Dopodiché, nella situazione in cui siamo, secondo me, prima di tutto i cittadini libanesi ci hanno implorato di non far passare gli aiuti appunto dalle istituzioni, perché sono assolutamente demotivati, certo, e senza più fiducia. Quindi hanno anzi chiesto che fossimo noi in diretta a portare gli aiuti che venivano, certo, appunto dai nostri paesi e ad aiutarli personalmente. Dall'altra parte, siamo strutturati per farlo, un po' di più delle istituzioni che appunto si sono ritrovate a essere semidistrutte e incapaci di mettersi in piedi. Secondo noi continuiamo a lavorare con le istituzioni locali, quindi con i sindaci, con i rappresentanti, no, di ogni quartiere che è colpito. Loro sono vicinissimi alla popolazione, quindi in questo senso si può lavorare anche con le istituzioni. Sì. Dall'altra parte è vero che il paese che già vive una crisi sopra un'altra, quella della, certo, della crisi siriana, eccetera, abbiamo visto in questi anni quanto comunque non si è riuscito a farci un capacity building, a far loro gestire indipendentemente con trasparenza questi aiuti, quindi è un po' anche il nostro ruolo, ecco. Certo. Poi passeremo il testimone, però non sarebbero stati, ecco, diciamo che se riesco a tradurre e sintetizzare il suo pensiero, Marina Molino Lova, scusate, ricordo capo missione di ASI in diretta da Beirut, c'è il momento dell'emergenza e poi c'è il momento dello sviluppo. Citavo Lorian Lejour, citavo Asil Tabarra, allora sembra quasi farle eco, non l'ho fatta sentire prima, la faccio sentire adesso, la sua risposta. Il ruolo dell'ONG, quel sottilissimo confine tra fornire assistenza oppure deresponsabilizzare, allora l'assistenza diventa assistenzialismo. Sentite cosa ne pensa il giornalista libanese. Il è evidente che più persone, né le libanesi né la comunità internazionale, hanno confianza nel governo. È evidente che da più parti, né da parte della comunità internazionale né da parte del popolo libanese, si nutra alcuna fiducia nel governo libanese. È da anni che il paese è in recessione. Ci sono problemi come quello dei rifugiati siriani e molti altri. E il denaro pubblico non si vede, sparisce nelle tasche di qualcuno. Quindi è buona cosa che gli aiuti internazionali non arrivino direttamente al governo, ma che vengano gestiti dalle ONG e soprattutto da ONG straniere. Questo aspetto non è affatto preoccupante, almeno siamo sicuri che questi aiuti arriveranno alla gente. Una parte di questi aiuti dovrebbe essere gestita dall'esercito, ma sfortunatamente, almeno per il momento, gli abitanti dei quartieri di Beirut devastati dall'esplosione non hanno ancora ricevuto sostegno economico. Secondo la maggior parte di loro, infatti, l'esercito ha bussato per consegnare una montagna di moduli e documenti da riempire, ma non gli aiuti. Gli abitanti di Beirut, che stanno per ricostruire, lo stanno facendo solo con l'aiuto delle ONG locali, delle ONG internazionali oppure di tasca propria. È importante che il governo rimanga escluso dagli aiuti che arrivano al Libano. In qualche modo Asil Tabarra, senior editor di Lorian Lejour, libanese, giornalista, va a fare un'investitura a tutti gli effetti del ruolo del terzo settore in un momento di emergenza come questo. E stavamo discutendo con Marina Molino Lova in diretta da Beirut, capo missione di ASI nel paese, di quanto fosse sottile la linea tra assistenza e assistenzialismo. Mettiamo il grand'angolo brevemente e se può sinteticamente, Marina, su quella che è la situazione più generale. Abbiamo raccontato della corruzione, dei problemi economici, il sistema bancario, il sistema dell'infrastruttura elettrica, poi però c'è il problema, questione dei migranti siriani praticamente mai risolta, addirittura anche di quelli palestinesi se vogliamo tornare indietro nel tempo. Ecco, quando ci sono crisi di questo tipo, gli ultimi diventano ancora più gli ultimi se è possibile. Trovate energie e sforzi per continuare a concentrarvi anche sulla questione migrazione, per esempio le fasce più vulnerabili della popolazione fuori da Beirut? Sì, questo è un punto importantissimo in effetti ed è la grande difficoltà a cui abbiamo fatto fronte, perché non ci aspettavamo ovviamente di dover essere appunto deviata tutta la nostra macchina di attività, progetti e attività che avevamo già in corso nelle altre zone di Beirut, nelle altre zone del Libano, quindi le zone rurali più povere, con i rifugiati ma anche con la popolazione libanese. E in effetti resta cruciale non farsi prendere solo dall'emergenza di Beirut, perché la popolazione libanese versa in condizioni molto molto gravi, hanno perso il potere d'acquisto, non hanno accesso ai loro soldi in banca, quindi davvero non arrivano a fine mese, ma cominciano a non arrivarci dal 10-11 del mese, non più dal 20-25. E c'è la preoccupazione per l'inverno, per pagare il gasolio per scaldarsi, non ci sarà, per pagare da mangiare, che per aggiungiamo, pagare le scuole. Chiedo scusa se la interrompo, Marina Molinolova, ma a dispetto della collocazione geografica, ve lo assicuro, l'inverno libanese può essere molto molto rigido e si può vedere anche la neve, e non tutte le case assolutamente hanno il riscaldamento, quindi questo può essere un problema. Immaginate poi invece i profughi, quelli di lungo corso palestinesi e poi anche quelli siriani. Siamo quasi in chiusura di questa seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, per cui io ringrazio tantissimo Marina Molinolova, capo missione AFS in diretta da Beirut, che ci ha restituito una fotografia particolarmente significativa della situazione del paese. Non mi resta che farle i miei migliori in bocca al lupo. Buona giornata e buon lavoro, Marina. Grazie mille, grazie. Un po' di messaggi al 349-238-6666, velocissimi, ma anche su Facebook. Il Libano soffre di una profonda crisi morale, ricca di corruzione, una classe politica non credibile, rincara la dose un ascoltatore. I militari italiani dovrebbero disarmare Hezbollah ai confini con Israele, fa eco un altro ascoltatore sempre su Facebook. Questa è la tesi, quella portata avanti dall'amministrazione statunitense, un po' più in sordina da quella francese, vorrebbe un disarmo più lento, ma non è che i militari italiani e la missione UNIFIL si possono mettere a disarmare Hezbollah. Questo vuol dire dichiarazione di guerra a tutti gli effetti. Attenzione, che anche le presenze militari, soprattutto in un contesto internazionale col cappello internazionale ONU, si fanno in super punta di piedi. E spero di non suonare stucchevole nel ribadirlo, gli italiani stanno facendo molto bene lì. E come? Allora, piccola pausa, andiamo a sentire com'è il traffico sulle strade e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano va ad affrontare l'aspetto innanzitutto prettamente politico, perché in questo Libano particolarmente fragile, particolarmente vulnerabile, a un mese esatto dalla disastrosa esplosione che ha distrutto il porto di Beirut, era il 4 agosto, almeno 190 morti, migliaia di feriti, una città totalmente dilaniata anche dal punto di vista fisico, piove sul bagnato, direbbe qualcuno, se non sembrasse una feroce ironia visto che parliamo di esplosioni. In tutto ciò il nuovo premier incaricato, Mustafa Adib, ha un ruolo importantissimo, perché dovrà accogliere in qualche modo quelle che sono le istanze presentate dalla comunità internazionale, dalla Francia, che ha chiesto un governo entro due settimane. Mustafa Adib in realtà fino a qualche giorno fa praticamente non lo conosceva nessuno. Chi è Mustafa Adib? ...48 anni, nato a Tripoli, sposato con una cittadina francese, padre di 5 figli, Mustafa Adib, pur essendo un volto noto nei corridoi della politica libanese, era sconosciuto ai più prima di domenica scorsa, quando è stato incaricato di formare il nuovo governo del paese dei Cedri. Con un dottorato in giurisprudenza e scienze politiche, Adib vanta una carriera accademica in diverse università in Libano e in Francia, oltre a svariate collaborazioni con le Nazioni Unite. Di credo sunnita, come richiesto dalla Costituzione, la notizia della nomina a guida del paese lo ha raggiunto a Berlino, dove negli ultimi 7 anni aveva svolto il ruolo di ambasciatore di Beirut in Germania. Consigliere e capo di gabinetto dell'ex primo ministro Najib Mikati, con 120 preferenze in Parlamento, Mustafa Adib ha guadagnato il supporto di parti chiave come gli sciiti di Hezbollah e i sunniti di Movimento Il Futuro, pur non riuscendo a convincere le forze libanesi cristiane in un paese ancora fortemente caratterizzato dal settarismo. A differenza del suo predecessore, incaricato di strappare il Libano da una crisi economica, sanitaria e sociale, Adiba ha invece il compito di tirare fuori il paese dal baratro in cui è piombato dopo l'esplosione al porto di Beirut dello scorso 4 agosto. Non c'è tempo per discorsi, promesse o desideri. È tempo di lavorare con piena forza, con la collaborazione di tutti, per guarire la nostra nazione e ripristinare la speranza delle persone in un domani migliore. Queste le parole del nuovo primo ministro pronunciate durante la cerimonia di insediamento. Sarà in grado di metterle in pratica? Questo è il profilo di Mustafa Adib, l'ha curato Andrea Macchioni, che ha sintetizzato in 90 secondi quello che è la figura, fino a qualche giorno fa, lo ripeto, praticamente sconosciuta ai più. Un po' di messaggio al 349-238-6666. Sono stato due volte in Libano, Hezbollah è un parastato che controlla il sud, attore politico imprescindibile, in qualche modo va a rispondere a un... nuova replica di quell'ascoltatore che su Facebook ricorda giustamente, il mandato ONU prevede il disarmo, lo prevede peraltro da qualche anno, perché all'inizio la missione di interposizione doveva proprio interporsi e permettere il ritiro dei soldati israeliani dopo la guerra. Poi si aggiunse questo aspetto del disarmo, che non è mai stato portato a compimento, ma per ovvie e enormi difficoltà. Hezbollah è anche un movimento politico, Hezbollah siede in Parlamento, ha, come ricorda l'altro ascoltatore, nel sud un parastato sociale a tutti gli effetti, ricorda i fratelli musulmani dei tempi d'oro in Egitto e non solo, e quindi è, come dire, bisogna stare molto attenti a andare a, pur presente nel mandato ONU questa missione, bisogna stare molto attenti, ci si muove davvero in punta di piedi, perché si va a incidere su una situazione particolarmente complessa. Il Libano, se volete, è un nella complessità è forse l'apice della complessità medio orientale. E anche per la diaspora libanese non è facilissimo leggere quello che sta accadendo. C'è una ricerca, dice, universitaria, Scuola Sant'Anna di Pisa, è libanese, da alcuni anni ormai vive, studia, lavora in Italia, Stephanie Dyer, da membro della diaspora libanese in Europa, come vede il suo paese e soprattutto ha voglia di tornare in Libano? Sentite. Quello che è accaduto in Libano da quasi un anno a questa parte, in particolare la crisi economica, la svalutazione della lira libanese, l'epidemia del coronavirus, l'incapacità soprattutto della Sulta, cioè la classe politica, e l'esplosione avvenuta nel cuore di Beirut ultimamente, è praticamente una tempesta perfetta, ma può rappresentare l'unica opportunità per questo popolo libanese di una ricostruzione politica e sociale di cui il paese ha bisogno da tanto tempo. La diaspora libanese è stata sin dall'inizio molto presente e attiva, già dalla rivoluzione di ottobre, attraverso per esempio manifestazioni di solidarietà nei paesi di residenza. Dopo l'esplosione del 4 di agosto, in tanti sono rientrati a Beirut per contribuire alla ricostruzione e per partecipare soprattutto al cambiamento in corso. Questa è la voce di Stephanie Dyer, membro della diaspora libanese, ricercatrice, ha studiato alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Abbiamo chiesto a lei anche un altro giudizio, che forse da libanese espatriata all'estero è più scevro da quelle che sono le dinamiche anche interne libanesi, ovviamente. Qual è il punto di vista della Dyer sull'intraprendenza francese di Macron in Libano? Scomoda presenza neocoloniale o sincera solidarietà internazionale? Sentite. Personalmente non categorizzerei l'intervento francese come semplice solidarietà nazionale, né come pura presenza neocoloniale. Se da un lato è vero che le immagini del 4 di agosto hanno scosso il mondo intero, Penso anche che sia necessario guardare l'intero scenario geopolitico della regione. Attraverso gli aiuti al Libano, diversi paesi europei, tra cui anche la Grecia e l'Italia, non dimentichiamo che il Premier Conte farà visita in Libano nei prossimi giorni, hanno un'occasione per frenare le mire espansionistiche e l'influenza della Turchia nei paesi del Mediterraneo. È innegabile che la Francia abbia una relazione privilegiata con il Libano, dato le storiche relazioni tra i due paesi, e soprattutto dato che il Libano offre alla Francia una porta aperta sul territorio medio orientale. Considerando il quadro complicato nella regione, penso che ci vorranno alcuni mesi per capire le conseguenze dell'intraprendenza francese. E soprattutto le reazioni, torno sul punto Hezbollah, che è il vero grande punto di domanda, se volete, rispetto a questa intraprendenza francese. Qualche giorno fa è intervenuto Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, e ha detto: siamo aperti a qualsiasi discussione costruttiva sull'argomento, che è ricostruzione politica, a condizione che sia un dialogo libanese e rispecchi la volontà di tutte le parti libanesi, quasi un discorso ecumenico da statista, ma l'abbiamo detto, Hezbollah è una presenza particolarmente ingombrante, importante, con i quali bisogna fare i conti, così come bisogna fare i conti con la mancanza di tempo, per cui i dossier internazionali, sapete che facciamo? Noi in redazione ce li leggiamo noi durante il weekend e vi sforniamo una puntata nuova lunedì mattina, e l'ultima cosa da fare è lanciare i titoli di coda. You're fired. You're fired. You're fired. E ringraziamenti a tutta la squadra di Nessun Luogo, a voi che siete stati all'ascolto, un buon weekend da Giampaolo Musumeci.